Allora noi oggi dobbiamo dire delle cose di assoluta ovvietà e dire in modo così chiaro che possano penetrare attraverso la, diciamo, la barriera delle convinzioni, perché delle convinzioni diffuse oggi. Oggi l'inconscio, sapete di cosa è fatto? Oggi l'inconscio, dice Dio, gran parte dell'inconscio, non è la sessualità, non è che tanto quello, ma non incide così in modo enorme. L'inconscio è formato, secondo i psicologi più illuminati, da cosa? Dall'economia. Sapete la ragione per cui oggi la maggioranza delle persone sono depresse? Non perché si sentono in colpa, non perché hanno un desiderio sessuale nei confronti della sorella che è rimosso. Ormai non gli importa più niente a nessuno. Sì, un po'. È perché non si sentono all'altezza. Non si sentono sufficientemente capaci, non sono mai abbastanza bravi. Quindi c'è un continuo giudizio interno di valutare se stessi. Infatti oggi l'epidemia, lo vedrete anche qua, di che cos'è? Del giudice. Continuamente esposti a un tribunale che decide se siamo abbastanza a posto oppure no. La maggioranza dei ragazzi è cacciato lì dentro e moltissime persone sono. Allora, oggi abbiamo imparato non osservare empaticamente. Per i bambini oggi cosa si fa? Si osserva i bambini attraverso la griglia comportamentale, si vede che è un po' agitato, non si chiede come mai è agitato, non frega niente a nessuno. Se è agitato vuol dire che ha dei problemi neurologici e gli si dà il farmaco. Così queta. Quando una società arriva a questo, vedi che proprio si è perso tutto. Cioè un bambino nasce agitato. Potete spostarvi in un'altra cultura per vedere come sono i bambini, se ce n'è ancora qualcuno normale. Vedete che i bambini si muovono quando c'è da muovere e quietano quando c'è da quietare. Se no saremmo estinti. Se l'umanità fosse formata, si fosse formata, i bambini avessero le caratteristiche che hanno oggi, l'umanità non sarebbe sopravvissuta, sarebbe estinta. Oggi ci vogliono 4 persone per allevare un bambino. 2 nonni e 2 genitori che stanno in turni perché sono agitatissimi, quindi quasi moltissimi bambini sono agitati, non è mai successo. Quindi vuol dire che i bambini sono la quartina di tornasole della società in cui viviamo. Gli studenti delle università non sono mai stati conciati così. Ma è stato impressionante gli ultimi anni che ho studiato l'università, era un incubo. Sapete quale facoltà era? Psicologia. Chiedevo, scusate, datemi questa, soddisfacente la mia curiosità, perché vi siete iscritti a psicologia? Sapete la domanda? Per capire noi stessi. E lo state facendo, capite? Forse sì, ma non lo so, di qua di là. Erano tutti agitati, impauriti, ma c'era una percentuale di persone angosciate che non ne trovate quasi in nessun luogo. Era un covo di angoscia. Non riuscivano a capire. Cioè, un discorso come vi sto facendo adesso qua era impossibile farlo. Una volta nella mia ingenuità chiesi, mi dissi, vediamo un po' se possiamo insegnargli come condurre una riunione. E pensai, c'è un tema che può interessare tutti, l'ecologia ormai interessa tutti, vediamo come si potrebbe condurre una conversazione di questo tipo. E quindi dissi, sentite, vedete, la nostra città è piuttosto inquinata, c'è rumore, così. Vorrei che qualcuno avviasse una conversazione su come si potrebbe cambiare questa situazione. Chi potrebbe fare il conduttore? Non si alzò nessuno. Poi guardai, facili strumenti, guardai così. E uno dice, ma io non sento disagio, ma io ci sto bene. Mi disse, ma scusa, quando tu entri in una strada tutto quel rumore ti sputano in faccia i veleni più tossici dell'universo. No, io sono abituato, non è quello che mi preoccupa. E quella stessa mattina, andando all'università, ho visto 2 ragazzi giovani, come si è detto, poi più giovani, poi 30 anni, ecco, vabbè, 7-8 anni di meno, così, con due occhi che ci vedevano i puntini, con una proprio neros, cioè cosa hanno visto, cosa hanno visto. C'era un vetro, c'era una vetrina dietro, vado, c'era un paio di scarpe come queste. Allora mi avvicino incuriosito per non capire, mi avvicino anch'io, mi metto alle cose e ho potuto capire il segreto. Avevano detto il prezzo, costavano solo 250 euro, è un'occasione da non perdere, uguale a queste, solo che avevano cose così anziché proprio così, uguale. E io sono allontanato, ho detto lascolo. Poi ho detto beh, chissà che cosa, dove, cosa fanno nella vita. Vado all'università, mi erano dietro, studiavo psicologia. D'altra parte, a volte bisogna anche dirmi le cose. Abbiamo seguito una scuola di cura energetica, dove c'erano tutti i psicoterapeuti o psicologi, tutti. Una volta ne vedo due che avevano gli stessi occhi di queste ragazze, così. Ma non c'era niente da parlare, parlavano tra loro, gli vibrava qualcosa dentro, cioè li vedevi proprio con un eros, come se avessero fatto l'amore con il loro sogno della loro vita, no? E quindi ovviamente ero curioso come una cima, mi seguo di vicino, faccio finta di niente anche io, e cerco di ascoltare. Poi gli ho chiesto, ma che cos'è che vi rende così felici? Non vi ho mai visto così. Ho appena ricevuto adesso una telefonata, cosa è successo? Mi hanno detto che possiamo fare il terzo livello di Reiki pagando solo 15 milioni. Era felice, perché ne costa 30 e la metà. È felice. Allora io che non ne sapevo molto, allora gli ho chiesto, deve essere. Ma in che cosa consiste? Mi devono dare dei simboli. Come te li danno in mano? No, mi passa. Chi? Il maestro, sì. E chi sono e chi li dai? Ecco, il maestro. Poi siccome io ho una componente della terra, no? Ho vissuto il 68, sai queste cose, ho un po' di diffidenza, ce l'ho, ho detto, scusa, ma lui cosa ha fatto per guadagnarsi 15 milioni? Ho capito, si guadagna. Quanto lavora? Ah, no, la cerimonia dura meno di un'ora. Allora ho fatto i notai, 1 milione d'ora, questo 15, un genio. Perché poi dai notai, quando ci vai sei anche arrabbiato di dargli 1000 euro, no? Invece lì sei felice, cioè chi ha raggiunto questo, io mi inchino, cioè questo è un genio, no, uno che riesce a fare così, io lo riconosco, cioè due persone felici, però non è finita lì, proprio quella stessa merda. Lì c'era un altro genio fantastico, riusciva a fare gruppi di 50-60 persone, di cui molti erano psicologi. Lui aveva una cosa da italiano, no? Era genovese, ligure, sapeva da lì, però aveva capito come stanno le cose, si fingeva di aver fatto avere la cultura indiana del Sud America, perché a seconda dei periodi vale una moda o l'altra, in quel periodo valeva la moda degli anni America. E lui si era letto 4-5 libri di quel tipo lì e parlava con lui. Siccome però non aveva molte parole, si era inventato questa. Guardate questa genia. Lui si alzava al mattino e diceva si deve far silenzio. Non faceva parlare mai nessuno, lui non parlava. Finita colazione, lui si avviava fuori in un bosco e andava a farsi una camminata. Tutti questi in fila indiana, tutto il giorno così, e tornavano alla sera, sempre tutti in silenzio, e lo pagavano. questa sì che c'è. Tornando alle nostre cose, perché l'economia è il nostro incontro? Perché l'economia è un tarlo che agisce su quasi tutti i nostri comportamenti, non ce ne rendiamo conto, ma è così. Bene. Quindi posso darvi una buona notizia: i guai che abbiamo sono comuni. Abbiamo tutti, misura maggiore o minore, ognuno poi ha i suoi specifici, ma siamo qui per aiutarci reciprocamente a scioglierli.